Gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno da Davide Paolini dal Salone Nautico di Genova. Ebbene, avete sentito, buon compleanno Radio 24, 15 anni. E sono 15 anni che io ogni sabato sono qua pronto a parlare ai gastronauti. E oggi in maniera particolare io ricordo che chi interviene su questa trasmissione 800240024 avrà in omaggio una maglietta, appunto per ricordare il compleanno di Radio 24. E chi volesse mandare anche auguri 349 238 6666. Bene, oggi parleremo di un argomento abbastanza inedito, se ne parla sempre poco. Io direi che parleremo di un cibo che, oltre il bio, oltre alla cucina vegetariana, parleremo di cibo spontaneo. E questo cibo spontaneo cosa rappresenta? Naturalità, stagionalità e sostenibilità, che sono questi valori che oggi si vanno sempre più ricercando e sono un tema che dovrebbe essere affrontato anche dall'Expo 2015 a Milano. Ma oggi ne parleremo con alcuni raccoglitori, appunto cercatori di questi prodotti, e con alcuni chef, alcuni cuochi, perché diciamo che è una tendenza che sta emergendo. Ma iniziamo da una raccoglitrice, da Valeria Mosca di Wooding. È una piccolo gruppo che è stato messo in piedi da Valeria, che da tanti anni si occupa di questo argomento, per chiedere come si possono raccogliere gemme d'abete, farine di corteccia, fiori di sambuco, capperi di pratoline, gemme di pino e via di seguito. Buongiorno Valeria. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Ma che preparazione ci vuole? Perché sicuramente ci sono molti, molti cibi che sicuramente non si possono raccogliere per danneggiare la natura, oppure anche perché possono essere velenosi. Certo, sicuramente bisogna prestare moltissima attenzione quando ci si appresta a raccogliere dei prodotti selvatici. Il mio consiglio è quello sicuramente di prepararsi da prima su dei test specialistici che si trovano in commercio, soprattutto inglesi, e poi magari iscriversi ad un corso con qualche esperto che può indicare, tramite la propria esperienza, i modi migliori per approcciarsi a questa pratica. Ecco, dacci un esempio: in questo momento tu stai raccogliendo per tutto l'anno, cosa si può raccogliere nel bosco, oppure diciamo lungo i fiumi, oppure ancora diciamo in montagna? Ecco, quali sono i prodotti che in questo momento si consigliano di raccogliere? Sì, allora diciamo che in questo momento c'è tantissima disponibilità di frutta a guscio, come per esempio possono essere le nocciole selvatiche, le noci selvatiche, le facciole, le castagne, ma anche tutte quelle bacche che maturano proprio in questa stagione, diciamo, quindi i mirtilli rossi, il biancospino, le prugnole, i cinorri di rosa canina, il sorbo per esempio, andando poi fino a degli ingredienti magari un po' più particolari, come possono essere alcuni tipi di radici. La più comune da raccogliere è la radice di bardana, o se ci si sposta in territori con un'altitudine maggiore, anche le resine, la tossillaggine, il rumex alpinus, insomma. Beh, diciamo che è una stagione ricca. Ti fermo, sei un fiume in piena. Sentiamo Maria da Viterbo, una radioascoltatrice che così diciamo si porta a casa la maglietta. Buongiorno Maria. Buongiorno Davide. Ecco, volevo parlare del finocchietto selvatico. È un alimento straordinario, perché per condire le carni bianche, rosse, tutte, sulla carne di maiale è ottimo, anzi si può mettere arrotolato in abbondanza per fare un ottimo roast beef. E poi sulle patate, rendere un piatto di patate in padella superbo, buonissimo, fa bene, perché ai bambini si fa l'infuso di finocchio, è digeribile, lo trovo ottimo. Si raccoglie in questo periodo, oppure qualche settimana prima, quando gli ombrelli sono gialli, rosati. Maria, ti fermo perché abbiamo tantissime già telefonate, ma io voglio sentire, abbiamo con noi in linea Pier Giorgio Parini, che è lo chef del ristorante di vicino a Sant'Arcangelo, e l'osteria del povero diavolo a Torriana, e lui è un cuoco, uno chef che utilizza già diciamo ciò che viene trovato appunto di cibo spontaneo. Tu dove lo usi, Pier Giorgio, il questo che ci ha parlato ora la signora di finocchietto selvatico? Ciao Davide. Buongiorno. Io, vabbè, oltre al finocchietto selvatico, che adesso sì, è la stagione, nel senso che magari dopo aver fatto i frutti e le foglie ricresce, quindi ci sono i getti nuovi e si usa, vabbè, la signora ha detto delle cose giuste, con la carne è sicuramente il classico coniglio in porchetta che tutte le nonne fanno in casa in Romagna, non può non avere il finocchietto, insomma, quindi è sicuramente una cosa giusta. Senti Pier Giorgio, tu fai un grandissimo risotto con le gemme di pino, come ti è venuta quest'idea? Non sono proprio gemme di pino, ma sono cipressi. Sono le gemme cipresso. E l'idea mi è nata dal ricordo del profumo di questa pianta, e quindi poi ho cercato il modo per poterla utilizzare al meglio, quindi per poter fare un infuso per sostituire il brodo e un olio aromatizzato con le pigne del cipresso per poterlo poi mantecare. Bene, ringrazio Pier Giorgio Parini dell'Osteria del Povero Diavolo di Torriana. Devo dire che è incredibile, sono arrivati qualcosa come 20 sms di auguri a Radio 24. Grazie cari radioascoltatori, ma ne sentiamo subito uno, Angelo da Milano, che si porterà a casa la maglietta. Buongiorno Angelo. Sì, buongiorno. Senta, io volevo dare una piccola ricetta velocissima ma altrettanto gustosa. Praticamente fare una frittatina con aggiungere un po' di formaggio e gli asparagi selvatici che ci sono in primavera, che si raccolgono in un po' tutti i campi, i prati, che sono buonissimi, facilmente trovabili e gustosissimi. Bene, grazie. Valeria Mosca di Wooding, appunto, cosa vuol dire foraging? Perché lo chiamate in questa maniera, questo tipo di ricerca, un po' in tutto il mondo? Esatto, diciamo che il termine foraging indica proprio l'attività dell'andare a cercare e raccogliere cibo spontaneo, esplorando appunto dei territori diversi che possono essere montagne, argini dei fiumi, spiagge, boschi, imparando poi appunto a riconoscere e a selezionare questi vegetali che possono essere interi o parte di essi e che sono ritenuti commestibili e adatti appunto ad essere utilizzati anche in cucina. Bene, grazie Valeria Mosca di Wooding. Allora io leggo, complimenti a Valeria per la sua interessantissima attività. Una domanda, gli chef sanno davvero usare questi ingredienti? Ebbene, io lo chiedo a un amico che non si definisce chef, ma lui cuciniere giramondo. Buongiorno a Carmelo Chiaramonte. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Carmelo, tu sai usare appunto i prodotti che trovi sull'Etna o intorno all'Etna? Sì. Devo dire che sono un cuoco che attraversa da 3 anni un periodo botanico di fascinazione completa, per cui in questo periodo è proprio il mio momento di studio di questo argomento. Ecco, è molto ricca la tua Sicilia di prodotti spontanei? Fino adesso io sono arrivato a cucinarne circa 120, il mio obiettivo è di arrivare a 300. Ah beh, quindi 120. hai una biblioteca straordinaria, un repertorio straordinario di questi prodotti. Devo dire che in Italia, per quanto riguarda la bibliografia delle piante selvatiche mangerecce, purtroppo non c'è un libro completo che dia giustizia a questa ricchezza immensa. Ho dovuto attingere anche dalle bibliografie francesi, in cui sono arrivati a classificare più di 1000 piante selvatiche mangerecce. Bene, rimani con noi ancora, sentiamo Enzo da Mantova. Buongiorno Enzo. Buongiorno Davide. Buongiorno, prego. Qui da noi si raccoglie in primavera il Lord Peace, che è un asparago selvatico, e lo si usa molto col risotto oppure con la frittatina, come diceva il signore di Milano. Bene, grazie Enzo, la maglietta sarà tua. Sentiamo Dario da Varese, un altro radioascoltatore. Prego Dario. Oh. Prego Dario, può parlare. Quindi purtroppo abbiamo... Bene, si sente malissimo, lo cercheremo di richiamarlo. Volevo chiedere, abbiamo con noi un erborista, Alessandra Brioschi. Buongiorno Alessandra. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Senta Alessandra, dalla sua, diciamo, lei fa un'attività appunto importante, ma le erbe che si trovano, quelle spontanee, ma sono tutte, diciamo, commestibili? No, purtroppo no. Anche all'interno di una stessa famiglia botanica tante volte abbiamo delle erbe buonissime dal punto di vista erboristico o alimentare e erbe altrettanto tossiche o velenose, e mi viene l'esempio della famiglia delle umbellifere dove abbiamo l'angelica che è ottima dal punto di vista erboristico e alimentare, ma abbiamo anche la cicuta che purtroppo è tossica e velenosa. Quindi bisogna stare molto attenti. È importante sempre avere o una conoscenza botanica anche proprio sul campo per saperle riconoscere nel momento in cui si va a raccoglierle o comunque farle poi sempre controllare da qualcuno che abbia un minimo di esperienza proprio sul campo pratico. Bene, sentiamo, rimanga con noi Livio da Roma. Buongiorno Livio. Senti, Livio da Roma, buongiorno. Un topinambur. Sì, è prego. Una pianta interessante che si trova in questo periodo, praticamente sono delle grandissime margherite gialle, alte un paio di metri, la cui radice si raccoglie verso la fine di ottobre, novembre, quando la pianta si secca. È ottima praticamente per le radici, praticamente sono ottime per fare qualsiasi cosa, dalla crema all'omelette, ha il sapore del carciofo praticamente, è veramente ottima. Bene, grazie, la ringrazio. Vedo subito che un radioascoltatore interviene. Il Vertis è il germoglio del luppolo selvatico, non un asparago. Alessandra, è giusta questa osservazione? Sì, è vero, il luppolo. Bene, grazie. Allora, torniamo a Carmelo Chiaramonte. Carmelo, senti, ma si possono veramente fare dei piatti con dei sapori e dei profumi inediti con, diciamo, quello che si può raccogliere spontaneamente? Sì, ma intanto dobbiamo dire una cosa, in Sicilia c'è una classificazione antica contadina che definisce le erbe calde e le erbe fresche. C'è una piccolissima famiglia che è quella delle crucifere, le brassicacee, tutte le rucolette, le senapi, che vengono considerate calde perché sono piccanti e sono urticanti delle vie urinarie e vanno mangiate con moderazione. Tutte le altre, quelle che sono dolci e amare, invece si possono mangiare più o meno in abbondanza. Quindi c'è questa prima classificazione popolare. E poi il panorama è assolutamente impressionante perché si passa dai sapori più dolci fino a finire a cose molto amare. A me è una pianta che piace molto, è la borragine mangiata cruda, perché ha questo sapore di ostrica, di cetriolo impressionante, pur essendo una pianta terragna, sa molto di mare, per esempio, no? Bene, e devo dire che Carmelo, tu da anni porti avanti questo discorso, quindi ormai conosci il tuo territorio come pochi, e devo dire che questa saggezza popolare serve sempre a tavola, perché è sicuramente un sintomo, è un, diciamo, un insegnamento che è meglio seguire la saggezza popolare che altri consigli. Ma sentiamo Paolo dalla provincia di Cuneo. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Io prego. Volevo ricordare due cose da... Ho una certa età, quindi ricordo le cose da bambino. Uno sono le frittelle fatte con i fiori della gaggia o acacia, che sia, semplicemente passate nella pastella, sono veramente ottimi. E le altre erano i decotti con i fiori di sambuco fatti dalla nonna per la tosse. E volevo anche chiedere una cosa, se era possibile, se c'è un sito, possibilmente aperto, sul quale andare a leggere, eventualmente sul quale poter, diciamo, riversare le conoscenze di ognuno, perché penso che ogni regione, ogni provincia abbia le sue piante. Solo nella mia zona ce ne saranno una ventina che vengono usate, vengono raccolte. Bene, quello di Valeria Mosca, www.wooding.it. Grazie a Radio Caro Ascoltatore, a lei la maglietta, 800 24 00 24 per la maglietta, per chi vuole intervenire, sms invece 349 238 6666, e vedo che continuano ad arrivare gli auguri, grazie in particolare. Devo ringraziare ora un nostro radioascoltatore che vive in Danimarca e ci dice che ha appena finito di mangiare al Noma. Il Noma è un ristorante, diciamo, guida di questo trend della cucina fatta da muschi, licheni e di tutto quello che è selvaggio, e ci dice che la pratica del foraging non è una pratica ecologicamente sostenibile se fatta in modo intensivo, ovviamente, perché causa la distruzione dell'ambiente. Alessandra Brioschi, lei è d'accordo con questa sottolineatura? Sì, in effetti ci dovrebbero essere sempre delle regole di raccolta per avere un impatto ambientale corretto. È ovvio che non possiamo disboscare il bosco per avere tutte le gemme di pino che vogliamo, va raccolto tutto nel periodo balsamico, quindi nel momento giusto e nelle quantità corrette, senza andare poi a inficiare la vitalità della pianta stessa. Vedo che i nostri radioascoltatori che ci mandano anche gli auguri sono veramente molto preparati, perché una replica alla replica, dice, l'asparago selvatico è il germoglio del pungitopo. Poi c'è un'espressione un po' volgare che io non la leggo. Va bene, grazie Marco. E sentiamo Ernesto dalla provincia di Mantova. Buongiorno Ernesto. Buongiorno, no, mi chiamo Hermes. Mi scusi. Niente, no, non c'è problema. No, io volevo parlare delle riccione. Le riccione è un'erba che cresce spontanea nei prati, che mio suocero proprio in questo periodo sta raccogliendo in modo cospicuo, e questa qui viene cotta e usata come una verdura tipo Catalogna, tipo, comunque è un'erba che è molto medicinale ed è lassativa. È un buon contorno per questo periodo, ecco. Quindi penso bene. Che sia una, si chiamano riccione, noi le chiamiamo riccione. Riccione come la città di mare, insomma, va bene. Grazie Ernest, non Ernesto, Ernest. Bene, devo leggere un SMS interessante che dice: attenzione che la borragine è potenzialmente cancerogena, solo i semi non sono pericolosi. Alessandra, è così? In realtà, non ci sono studi che confermano che la borragine sia cancerogena. Ha dei peli silicei, tant'è che magari mangiata cruda potrebbe essere un pochino più irritante. Sbollentata invece, così come l'ortica, è assolutamente commestibile, non dà problemi. A me, ecco, non risulta che sia cancerogena, però potrebbero esserci degli studi, purtroppo adesso fanno degli studi scientifici che dimostrano un po' tutto il contrario di tutto, quindi sì. Lo nego. Questo succede molto spesso un po' in tutti i settori. Carmelo, un'ultima cosa volevo chiederti. Sì. Dammi un piatto che tu stai facendo, appunto, basato sul cibo spontaneo. Beh, in questo periodo sto utilizzando molto un'erba infestante che si chiama porcellana, l'erba porcellana, portulaca, è una pianta piccolina che cresce nei posti irrigati, molto grassa, freschissima da mangiare con i pomodori d'ottobre, aciduri, e dà un effetto mucillaginoso al corpo, per cui pulisce bene lo stomaco, gli intestini, ed è una pianta gustosissima proprio perché è mucillaginosa, cremosa. Volevo specificare per quanto riguarda l'argomento asparago. L'asparago, sì, è un tipo di pianta. Tutti i germogli delle piante che fanno un asparago, che erroneamente viene chiamato asparago, si chiama turione. Quindi il pungitopo fa un turione, la pianta dell'asparago fa un turione. Bisogna chiamare, c'è una piccola letteratura anche proprio dei nomi precisi delle sommità e delle parti delle piante che si raccolgono. Sentiamo Anna Maria da Torino. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno. Prego. Grazie per avermi consentito di parlarvi, sono molto contenta perché vi ammiro e vi seguo da tanto tempo. Grazie. Volevo suggerire una ricettina semplice, forse un po' banale, però nessuno mi sembra che abbia parlato di ortica. Allora, l'ortica è una pianta che cresce spontanea nei boschi, sotto i cespugli, insomma, lungo le siepi, dappertutto. Quello che ha di particolare è che l'ortica, forse non tutti lo sanno, che è altamente curativa, ha delle proprietà molteplici nel campo della salute, depuratrice del sangue, antianemica, guarisce malattie, infezioni delle vie urinarie, ritenzione della patologia, insomma, dell'urina. Va bene per tutto, anche per il risotto, vero Anna Maria? Grazie, sì, esatto. grazie del suo intervento. No, abbiamo sempre parlato di bosco, continuiamo a parlare di raccolta nel bosco, e ieri alla Spezia ho visto una cosa straordinaria, ho visto ancora un artigiano, si parla sempre dell'Italia, del Made in Italy, bene, ci sono degli artigiani straordinari, e ho visto un coltellinaio artigiano che si chiama Danilo Resico, che fa ancora dei coltelli a mano con legno, con osso, veramente incredibile. Ecco, devo dire che questa è un'Italia che è tutta da riscoprire. Bene, continuiamo, e abbiamo con noi un altro personaggio di questo mondo, Caterina Candia. Buongiorno Caterina. Buongiorno. Buongiorno Davide. Buongiorno Caterina. Caterina, a differenza di Valeria, più che altro si occupa di erbe spontanee. Si occupa di erbe spontanee e devo dire che ha una cultura che ho assistito una volta a un suo intervento, veramente incredibile. Conosce tutto delle erbe. Caterina, ma questa tua conoscenza da dove ti è arrivata? Quella che basta metterla in un campo e lei immediatamente trova le erbe che sono commestibili. Caterina, come sei arrivata a questo? E questo sono partita con la nonna. Sono andata con la nonna da piccola a cercare le erbe perché era una tradizione dalle mie parti. Io sono di Pienza, provincia di Siena, e dalle nostre parti c'è comunque una tradizione legata alla raccolta delle erbe spontanee, che chiaramente poi è andata a scomparire, però io ho cercato di mantenerla, ecco tutto qua. Sono andata insieme alla nonna, poi ho incontrato una cuoca che lavora con le erbe e mi sono fatta insegnare anche da lei. Poi ho cercato un botanico e mi sono fatta insegnare da un botanico a riconoscerle con criterio, perché insomma bisogna conoscere le chiavi di sistematica, ecco, bisogna conoscere un po' di cose per andare oltre insomma la tradizione. Comunque io ho iniziato con la nonna. Bene, ma tu cioè, praticamente ormai fai questa attività? Io praticamente riesco a farla per buona metà dell'anno, perché lavoro con dei cuochi, procuro le erbe ai cuochi, ecco, questo è il mio lavoro. Vado in giro, allora... lavoro con un cuoco che conosci, lavoro con Fabio Picchi, uno chef di Firenze, e da tanti anni con lui e con altri ristoratori. Sì. Tu hai un sito? Hai un modo, perché sì, ci sono diversi. Ho una pagina Facebook dove scrivo ogni tanto qualcosa che si chiama Mangia il tuo prato, che cerca di essere un diario di erbe, ed ecco, non posso essere contattata tramite quello. Bene, tramite bene, quella pagina. C'è un cuoco per riconoscere. Sì. Ecco. Fai anche dei corsi, quindi ti si può contattare su Facebook sia sui corsi che, perché ci sono diversi, c'è anche uno chef che chiede come appunto metterti in contatto. Allora, con Caterina Candia, questo è il suo sito Facebook, e poi c'è invece Valeria Mosca, www.wooding.it, quindi cari chef o cucinieri che state chiedendo l'indirizzo, questi sono gli indirizzi. Volevo chiamare ora Maria, una radioascoltatrice della provincia di Pesaro. Buongiorno Maria. Buongiorno e auguri. Allora, grazie. Ho parlato con la vostra gentile centralinista e mi sono venute in mente anche altre cose. Noi abbiamo tanti prodotti selvatici perché siamo nell'entroterra, quindi praticamente siamo un po' abituati a prendere quello che c'è, perché non c'è poi moltissimo. E a parte le nocciole di cui parlava prima l'altra radioascoltatrice, noi abbiamo le vitalbe, che è una pianta rampicante, e praticamente si prendono le cimette più fresche e ci si fanno le frittate. Poi lampascioni, che hanno quel bulbo, diciamo, si possono fare chissà cosa pensano i pugliesi, perché gli ambasioni le ritengono anche noi delle Marche. Bene. Poi ci sono delle bacche molto grosse che si chiamano sorbi e si raccolgono nei boschi, me li portava mio suocero, e sono abbastanza tipo un'albicocca e si devono far maturare poi in casa, diventano color nocciola scuro, diventano morbidi, si possono mangiare. Oppure anche le giuggiole, che sono della specie, come le posso dire, assomigliano alle ghiande, però non sono assolutamente le ghiande, e anche quelle si fanno diventare nocciole e si mangiano. Brodo di giuggiole ha una derivazione felice, perché vuol dire che è dolcissimo. Grazie a Maria della provincia di Pesaro, che ci ha parlato degli ambasioni nelle Marche. Santo cielo, chissà cosa penseranno i pugliesi. Vabbè, comunque andiamo in Trentino ora, andiamo da uno chef, andiamo da un altro chef, il quale viene chiamato il Noma del Trentino. Noma è il famoso ristorante di Copenaghen, che è stato forse è stato considerato già il primo ristorante al mondo, quindi in testa alla gradatoria, quindi è un ristorante particolare preso come modello, perché usa appunto tutto spontaneo, muschi, licheni e via di seguito. Buongiorno Alessandro Gilmozzi, buongiorno. Buongiorno, ciao Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie. Il ristorante si chiama El Molin, se è vero Gilmozzi, sì. Che non si chiama Gilmozzi. Esatto, bene, Gilmozzi, ma lei quando ha iniziato a fare questa, diciamo, cucina basata in parte sui prodotti spontanei? Ma io ho iniziato dagli albori del ristorante, quindi 25 anni fa, ad usare erbe spontanee. Ho avuto la fortuna di iniziare come Caterina con la nonna, no? E con la zia, soprattutto con la zia che era botanica per passione e il nonno micologo, quindi mi insegnavano da piccolo quello che erano le erbe, quello che si poteva fare. Mi sembra che tutti, diciamo, gli appassionati, gli esperti di questo settore siano partiti con le nonne. Io mi chiedo se le future generazioni avranno una nonna che insegnerà, io ne dubito molto. Comunque continui, Gil Mozzi. Niente, e dopo chiaramente per arrivare a una ricerca più particolare ho dovuto anch'io, come tanti altri colleghi, cercare dei botanici che mi diano una mano cospicua su quello che sono veramente le erbe, su quello che si può utilizzare, non solo il fiore ma la foglia, la radice, perché abbiamo circa 260 tipi di erbe spontanee commestibili nell'arco alpino a cui si può attingere. Chiaramente bisogna fare l'attenzione che tante puoi usare solo la radice invece che l'arbusto piuttosto che la foglia, perché non puoi mangiarla tutta perché magari parte è cancerogena, no? E certo, quindi una certo. Grande attenzione, una grande ricerca, no? E da lì abbiamo sviluppato il lavoro sui licheni, adesso stiamo lavorando sulle fermentazioni, quindi in questo periodo raccogliamo non solo licheni ma bacche, stiamo addirittura studiando il nostro gin con le bacche del bosco. Questa è un'idea interessante, gin con le bacche del bosco. In questo momento che gin and tonic è di grande spolvero, credo che potrebbe essere un'idea molto interessante. Gil Mozzi, rimanga con noi. Daniela da Roma, una radioascoltatrice, buongiorno. Buongiorno Daniela. Prego. Sì, io avevo tante idee. Con il finocchietto ci faccio per esempio un liquore digestivo con la solita tecnica dell'infusione. Prima avevano parlato dell'ortica, ma non sono stati nominati i ficoccetti, che praticamente sono il fico appena nato, non più grande di un centimetro e mezzo, che viene colto e con questo ripassato con un po' di pancetta o altro ci si condisce la pasta, ed è un piatto tipico della Sabina che Daniela, credo non che abbiamo... fuori di questo. Daniela, non abbiamo parlato di tutto ovviamente, prima non abbiamo parlato della farina di corteccia da cui si fanno dei biscotti, di tante altre cose, quindi è un argomento credo molto, molto enciclopedico, credo. Quindi sicuramente qualcosa non è stato nominato, anzi se continuiamo a parlarne ne verranno fuori tanti altri, vedo appunto moltissimi sms in proposito. Ricordo 800240024 a chi interviene la maglietta del compleanno di Radio 24. Volevo tornare da Caterina. Caterina, tu cucini anche? Io ogni tanto cucino, sì. Cucino, ecco. Nel senso che so cucinare, chiaramente provo delle cose prima di portarle a qualche cuoco, o comunque cerco di sperimentare per prima, sicuramente sperimento io. Ok, volevo chiederti questo, in questo momento quali sono le erbe spontanee, diciamo di stagione, chiamiamolo così, che poi non c'è più stagionalità di questa, esatto, di questi il problema è quello, perché adesso c'è nuovamente tutto, sembra una nuova primavera, perlomeno da noi. Io sono riuscita a fare ieri un'insalata di campo, un'insalata primaverile, perché comunque sono rinate delle specie, visto il clima, la temperatura, sono rinate anche delle specie primaverili. Ci sono delle cose che non nascono comunque, ma sono poche, c'è tutto in questo momento. Chi chiaramente non è, tra poco per esempio c'è il topinambur selvatico e quella è una possibile raccolta, si va a raccogliere il tubero, e adesso comunque c'è tutto, sulle erbe acquatiche ancora, c'è il sedano d'acqua, ho visto, c'è un po' di tutto chiaramente. Primavera è un periodo migliore per la raccolta delle erbe, certo. Sempre la primavera, ma in queste stagioni siamo ancora per un altro mese in grado di fare insalate, per esempio insalate, cicorie cotte, c'è ancora l'ortica. Una cosa interessante dell'ortica, magari quando si va a raccogliere bisogna stare attenti dove si raccoglie l'ortica. Grazie Caterina, grazie Alessandro Gil Mozzi. Sentiamo Jean-Marie da Milano, buongiorno Jean-Marie. Buongiorno, sto facendo la spesa, auguri a Radio 24. Grazie, grazie. Auguri. Ascolti, io ho una ricetta della nonna, diciamo, ecco, che è una salsina con la citrusella fatta con burro, usavano olio, un spicchio d'aglio, la sciogliersi, quindi poi mettendoci la panna e il torlo d'uovo forma questa salsina che viene utilizzata ad accompagnamento con la polenta. Bene, grazie. Mi arriva un SMS che mi dice che ho dato un'indicazione sbagliata, è www.wooding.org, non .it, mi scuso di aver sbagliato. Bene, grazie a chi me l'ha suggerito. Abbiamo con noi, abbiamo detto siamo a Genova, siamo al Salone della Nautica e non potevamo parlare anche di mare, non dovevamo, cioè mare, anche il mare ha delle cose spontanee. Buongiorno a Roberto Ghezzi di Schooner, buongiorno Roberto. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Ecco, sì? le alghe, io volevo parlare delle alghe. Le alghe sono spontanee, le alghe marine, Roberto, o sbaglio? Sì, ci sono spontanee, sono nati anche degli allevamenti, in particolare in Israele, ma la quasi totalità rappresentano poco nel contesto complessivo. Ecco, ma le alghe commestibili, le più importanti, cioè le più interessanti, da dove arrivano? Beh, noi abbiamo fatto una selezione attenta di tutte le provenienze e dobbiamo confermare quello che già nel 1600 veniva considerato una risorsa del territorio, addirittura il cibo degli dèi, la Britannia, tra la Francia e l'Inghilterra, per le caratteristiche delle acque, per la temperatura, la conformazione del territorio, cioè a dire del fondo marino, scoglio e sabbia, e abbiamo lì la nostra raccolta dove riusciamo ad avere un prodotto spontaneo molto genuino e da non considerarsi un semplice alimento per i suoi grandi valori nutrizionali. Bene, rimani con noi, sentiamo Nunzio da Ragusa che si guadagnerà la maglietta per il compleanno di Radio 24. Buongiorno Nunzio. Sì, buongiorno, gli auguri. Prego. A Radio 24. Grazie. No, io proponevo questa ricetta che ricordo la preparava mia nonna e poi in seguito comunque la prepara anche mia mamma. È una ricetta fatta con si prepara il soffritto, un leggero soffritto di cipolla, si aggiunge l'acqua e si fa bollire e poi si aggiunge il finocchietto tagliato tutto triturato. A cottura avvenuta del finocchietto si aggiunge della farina di semola e da qui viene una crema con questo finocchietto che si utilizza al posto della pasta, al posto di mangiare la pasta. Ed è una squisitezza veramente. Una ricetta in più, prima o poi ci sarà qualcuno che farà appunto le ricette dal cibo spontaneo, ma ora andiamo da uno chef, ne abbiamo già sentiti quattro in giro per l'Italia, ora andiamo in Brianza, andiamo da Giancarlo Morelli del Pomerò. Giancarlo, c'è questo vento che spira dal nord, dalla Danimarca e dalla Svezia appunto, di uso di muschi, di licheni. Tu cosa ne pensi? Tu che so che ne utilizzi, volevo chiederti cosa ne pensi, avrà un futuro oppure sarà un momento? Allora, ciao a tutti e grazie per avermi chiamato. Allora, penso assolutamente che sia la soluzione oggi a una cucina d'avanguardia, cioè nel senso, voglio dire che tutto quello che arriva dalla natura, cioè impatto ecologico zero, sarà assolutamente utilizzato nel futuro delle ricette, diciamo, di questi dei cuochi che vogliono evolversi verso una cucina sempre più pulita e più sana. Infatti io l'ho detto all'inizio che le caratteristiche sono naturalità, stagionalità e sostenibilità, credo che sia oggi la triade che ci viene richiesta dal mercato, dalle persone, cioè è un discorso molto molto molto avanzato, d'avanguardia. Ma vedo che i nostri radioascoltatori continuano a intervenire. Francesco da Gorizia, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo soltanto dare un piccolo contributo, sono alla Guardia Forestale, e ricordare che la raccolta di tutta la vegetazione spontanea normalmente viene disciplinata da delle norme regionali o diciamo locali, provinciali, e bisogna fare molta attenzione quando si va a raccogliere perché appunto ci sono questi limiti. Nella nostra regione in particolare non mi pare di aver sentito nessun riferimento per esempio a dei prodotti molto particolari, radicchio di monte, l'aglio ursino, papabro, galinelle, tamus, sono altre, altri germogli che vengono raccolti e utilizzati nella, nella cucina regionale tipica nostra. Grazie, grazie, questo era importante, questo intervento. Voglio tornare a Giancarlo Morelli per chiedere, cioè, la, diciamo che la cucina da prodotto spontaneo italiana sarà sicuramente diversa da quella danese o svedese, perché diciamo il nostro territorio è diverso, i nostri boschi sono diversi, Giancarlo. Sicuramente, allora la nostra cucina è completamente diversa dalla cucina minimalista del nord, perché purtroppo per loro, loro hanno assolutamente un po' di, hanno gli icheni, hanno 3-4 ingredienti principali, da lì costruiscono quella che è la loro cucina, che è come il loro design, che è molto minimal, con dei gusti ben netti e ben puliti. La nostra è una cucina molto più avanzata, perché avendo una cultura così ampia che ci colpisce da, da generazioni e da secoli, è logico che questo uso di queste fattispecie di ingredienti non fa altro che migliorare quelli che sono poi i risultati finali, soprattutto se poi uno si cimenta in una cucina, diciamo, del senza sale, che deve cercare l'equilibrio del piatto finale aggiungendo radici, spezie e aromi, allora questo è il vero trucco per poter avere una cucina sana, una cucina di qualità, una cucina d'avanguardia dove si fa parlare la natura. Sì, devo dire che probabilmente ancora una volta noi in Italia, che abbiamo così un paesaggio variegato e tanta varietà come ce l'abbiamo sui prodotti, diciamo, sui prodotti gastronomici, potremmo averla anche lì, quindi avremo forse anche qui una chance in più. Voglio tornare a Roberto Ghezzi, che ha parlato di alghe. Voglio chiedere, ci sono tantissime varietà di alghe commestibili, Roberto? Ce ne sono veramente un'infinità. Però diciamo che quelle più conosciute, innanzitutto la grossa divisione dalla colorazione verde, rosse, nere, brune, che dipendono da, dalla profondità in cui vivono e si sviluppano. Ma diciamo le più conosciute, le oacame, le nori, le kombu, è molto apprezzate e che stanno emergendo, abbandonando l'idea che siano prodotti orientali e rilegarli alla cucina orientale. Sta emergendo gli spaghetti di mare, la lattuga di mare, che hanno applicazioni come una verdura normale di terra. Con bene, grazie. Cioè, prego, prego, finisci. Con proprietà però la loro ricchezza di proteine, vitamine, basta pensare per esempio che hanno la vitamina B12 che è assente nelle verdure terrestri. Roberto fermati perché stiamo chiudendo, devo dare ancora per 30 secondi la parola a Giuliano dalla provincia di Vicenza perché gli voglio far guadagnare la maglietta. Buongiorno Giuliano, velocissimo. Davide, buongiorno. Intanto auguri a lei e a tutti gli altri giornalisti della Radio 24. Grazie. Che io ascolto sempre. Grazie. Io volevo segnalarvi che noi in tutto il Basso Vicentino c'è una specie di erba che è una specie di spinacio noi chiamiamo con un termine dialettale, quasi ogni paese ha un suo termine, per esempio certo. Il paese dove abito si chiama Castracane. Il paese dove sono nato, che è vicino, lo sì. Chiamano Brusaoccio. Grazie Giuliano, devo interrompere perché dobbiamo chiudere la trasmissione. Io ringrazio veramente i tantissimi auguri che sono arrivati, non so quanti sono, non avevo mai visto tanti sms, ringrazio tutti gli intervenuti, la squadra di Milano e la squadra di Genova che è qui, quindi vi auguro a tutti e auguro soprattutto alla nostra radio di continuare ancora per tantissimi anni. Buon weekend da Davide Paolini.